as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Buongiorno e bentornati al Panele Rose. Oggi parliamo di un fenomeno che ha interessato la città di Modena, probabilmente anche altre realtà, ovvero gli esuberi nelle iscrizioni alle scuole di secondo grado. A Modena vi sono stati circa 300 studenti rifiutati dalle scuole di prima scelta a fronte appunto di una carenza di spazi e di organico e che quindi non consentiva di accettare tutte le iscrizioni ricevute. Ora, questa situazione naturalmente, stanti i dati demografici di incremento degli studenti, era nota da tempo, da molti anni, e non vi è stato fatto fronte in alcun modo, ma anzi è stato sempre di più attuato un taglio nelle risorse appunto destinate alla scuola. Un taglio o quantomeno un'invarianza a fronte appunto di una crescita. Una crescita che dobbiamo distinguere, non riguarda tutti gli studenti, ma riguarda soltanto appunto quelli di secondo grado, perché delle scuole di secondo grado, perché invece c'è un calo generale degli studenti in tutta Italia, tant'è vero che sono stati anche apportati degli ulteriori tagli anche nell'ultima legge di bilancio del 2023. Andiamo con ordine. Quello che vogliamo analizzare oggi appunto è questa situazione a causa della quale si sono ritrovati moltissimi studenti senza la possibilità di accedere alla scuola che avevano scelto come prima scelta, che per quanto riguarda la scuola secondaria è molto grave, in quanto determina comunque un cambio di rotta, un cambio di percorso di studi che assolutamente è imposto e non è volontario, laddove la scuola dovrebbe essere un diritto garantito, quindi anche nella scelta del percorso stesso. Ci sono state una serie ovviamente di proteste da parte di associazioni di genitori, anche e non ultimo per le modalità con le quali è stato comunicato questo mancato accoglimento della richiesta di iscrizione, trattando i ragazzi esattamente come dei pacchi, si parlava di smistamento infatti, e anche dei criteri che sono stati applicati per la selezione degli studenti che potevano iscriversi o meno alla scuola. Ne parliamo adesso con Claudio Riso, segretario provinciale FLC-CGL di Modena, e poi vi lascio alle conclusioni di Gian Placido dopo l'intervista. Ciao, alla prossima. Ciao Claudio, grazie di essere qui con noi oggi e volevo intanto capire meglio qual è il perimetro di questa situazione, cioè si parla di numeri molto importanti, quindi addirittura 300 studenti, ma non sono numeri certi, potrebbero essere di più o di meno, comunque rappresentano una fetta enorme degli studenti attualmente iscritti in una scuola superiore o che cercano di iscriversi in una scuola superiore. Quindi il numero è molto ampio, il numero di scuole che non hanno accettato la richiesta di ammissione sono tantissime, quindi c'è un chiaro cortocircuito. Ci racconti meglio? Allora, è vero che non c'è certezza sui numeri, le associazioni delle famiglie stimano 300 tra ragazze e ragazzi, in realtà questo dato non è mai stato confermato dalle amministrazioni scolastiche né dalle singole scuole per i numeri che competono ad ogni scuola e né tantomeno dall'ufficio scolastico provinciale. Di sicuro però è un dato che non è stato neanche smentito, quindi io credo che insomma se non è vero è quantomeno veritiero. Il cortocircuito però purtroppo non è una novità e non lo è perché la situazione di quest'anno è uguale, identica a quella che si è verificata l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa e che ormai ciclicamente si sta ripetendo e che è destinata a ripetersi. Perché la provincia di Modena è una provincia che ha di per sé un numero importante di studenti che tutti gli anni si iscrivono alle scuole superiori. Sulla provincia di Modena arrivano, convergono studenti anche dalle province vicine, dal Reggiano, dal Mantovano, e quindi praticamente questo non fa altro che acuire ulteriormente il problema. Quindi situazione che c'era, situazione che è destinata a ripetersi. Come però sto dicendo, in questo periodo le scuole in realtà hanno una responsabilità che è veramente limitatissima, nel senso che le scuole come singole autonomie scolastiche, come singole istituzioni, fanno con le dotazioni e di organico e di spazi che il Ministero mette a disposizione. Di conseguenza, finché non c'è un intervento centrale che rinforza gli organici delle scuole e si interviene anche sul territorio, sugli spazi, questa situazione purtroppo è destinata a non cambiare. Ok, infatti abbiamo sentito anche degli interventi che denunciavano come ad oggi viene gestito come se fosse una situazione emergenziale, laddove invece c'erano tutti gli elementi per capire da anni che il numero sarebbe incrementato e addirittura si sa da oggi che ci sarà un picco nel 2025, quindi che c'è una previsione ancora di 1 migliaio di studenti in arrivo nei prossimi 2 anni. Ora, la situazione appunto spero che in qualche modo verrà affrontata, nel senso che appunto ci si aspetta che non si continui a utilizzare delle succursali non in sicurezza, senza nessun interesse verso la sicurezza degli studenti ma anche la loro libertà di scelta. Secondo te è qualcosa che è fattibile nei prossimi anni oppure dobbiamo rassegnarci a questa situazione? Allora, le cattive notizie sono due. La prima, che non è una situazione emergenziale, ma che purtroppo ciclicamente si ripete in maniera davvero uguale a se stessa, quindi non c'è un'emergenza, c'è una situazione ormai conclamata che però non si vuole affrontare, gestire. Non si vuole assolutamente gestire, esatto. L'altra questione invece riguarda proprio appunto la gestione. Io a oggi non ho visto segnali né dal governo nazionale, dal ministero, né tantomeno dall'istituzione del territorio che facciano immaginare ad un cambio di rotta. C'è un fatto importante, secondo me, in seguito alle proteste di questi giorni, sia quelle nostre del sindacato, sia quelle delle famiglie, c'è stata un'interrogazione parlamentare presentata proprio in questi giorni al ministro dell'istruzione e vediamo che risposta arriverà. È un primo segnale, poi per il resto però le istituzioni del territorio non hanno battuto un colpo rispetto a questo. Io devo dirlo perché purtroppo nessuno ha fatto detto il contrario rispetto a quello che sto dicendo adesso. Personalmente sono convinto che invece non bisogna arrendersi perché questa logica che lega gli organici delle scuole ad una sorta di algoritmo sta già penalizzando le scuole del primo ciclo. Nelle scuole del primo ciclo, nell'infanzia e nella primaria, è già calato il numero degli iscritti per effetto del calo demografico. E questa cosa, anziché trasformarsi in opportunità lasciando lo stesso numero di docenti, in realtà sta diventando un problema anche lì perché fondamentalmente va in pensione molta più gente di quanta non entri di ruolo nelle scuole. Di conseguenza non sta cambiando nulla nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria, anzi si tende a chiudere delle sezioni, e questa cosa in prospettiva rischieremo di trovarcela anche più avanti nel tempo, quando paradossalmente calerà la curva demografica anche per i ragazzi più grandi, ma quell'algoritmo di cui parlavo prima porterà ad un calo del personale proporzionale al calo degli iscritti. Quindi si cala ma non si aumenta mai, cioè le risorse tendono solo in una direzione alla fine. Esatto, e questo è un assurdo, perché stiamo avendo la dimostrazione che i due segmenti più fragili di ciò che è pubblico in questo paese, penso alla scuola ma la stessa cosa vale anche per la sanità, sono trascurati. Su questo purtroppo, per quanto ci riguarda come scuola, devo dire che le responsabilità dei governi sono trasversali. La norma che regola gli organici è della fine degli anni 90, del 98, sono passati i governi di centrodestra, di centrosinistra e governi tecnici. Nessuno ci ha mai messo le mani. Oggi, nel post pandemia, quando tutti ci avevano promesso che dopo la pandemia tutto sarebbe cambiato, in realtà ci troviamo in una situazione ancora più disastrosa, e così nella scuola lo vediamo specularmente anche nella sanità. Io credo che noi come sindacato, come cittadini, non possiamo permettere che questa situazione continui a rimanere, come dire, immutata nel tempo. Ok. Volendo fare un appello alla cittadinanza attiva, diciamo, alla mobilitazione, tu cosa potresti suggerire? Cosa potremmo fare noi, genitori, non genitori, o comunque persone che sensibili appunto a questo trattamento indegno che stanno ricevendo i ragazzi? Cosa potremmo fare di pratico? Allora, io penso, e non è uno slogan, che la scuola sia davvero un bene comune, e come tale, come dire, bisogna che tutte e tutti noi sentiamo il bisogno di tutelare questo bene comune. Questa cosa la fai nei momenti pubblici come quello di oggi pomeriggio, quando c'è una piazza, e quella di oggi è stata secondo me una prima bella risposta. Non era scontato che famiglie, sindacati, studenti si ritrovassero in piazza un sabato pomeriggio. Credo che ci saranno altri momenti come questo, e devono essere momenti partecipati. Dobbiamo tornare a riappropriarci di tutto ciò che è pubblico, e dobbiamo soprattutto tornare a condizionare il dibattito pubblico, facendo in modo che i livelli decisionali siano sempre più vicini al territorio e alle persone che vivono e che lavorano. È una ricetta, come dire, vecchia probabilmente, ma è l'unica che io conosco, non ne conosco delle altre. Ok. Grazie mille Claudio, ci vediamo alle prossime manifestazioni e nella speranza di ricevere delle notizie incoraggianti. Grazie a te, grazie a voi. Potrei accarezzare la mia imperfezione, ma mi circondo spesso di persone che analizzano ogni errore sotto al microscopio, in cui termini timore solo l'oroscopio. In base a quel giudizio stare solo attenti, potrei in effetti badare solo ai difetti e passare le mie notti a digrignare i denti. Per certe cose d'obbligo il condizionale, ma dal futuro voglio la felicità, non renderti tridimensionale. Potrei appoggiare chi poi mi dirà che mi devo ridimensionare o farmi sottovalutare. Potrei evitare ogni istinto chiaro e distinto. Potrei farlo però non devo, no, no, no, no, no, non devo. Potrei farlo però non devo, no, no, non devo. Farlo però non devo, no, no, non devo. Potrei farlo però non devo, no, no, non devo. Farlo però. Ho imparato sempre a mie spese come va il mondo. Certe volte devo mettere i confini a chi mi gira attorno. È la folle idea che il dolore sia quasi un mio comfort. È un banale cliché. Potrei dire che non mi è mai importato di arrivare primo. La gente percepisce come una minaccia quello che non le è vicino. Più condivido i limiti che sfido e più a qualcuno do fastidio. Chissà in che piaga io ho infilato il dito. Potrei restare in silenzio il resto del tempo. Potrei. Potrei farlo però non devo. No, no, no, no, no, no, non devo. Potrei farlo però non devo. devo. No, no, non devo farlo, però non devo. No, no, non devo. Potrei farlo, però non devo. No, no, non devo farlo, però. Potrei abbandonare tutta la mia vita in mano a qualche guru, qualche life coach. Ho deciso di trovare solo la mia voce e il processo di ricerca non è il più veloce. I dubbi sono come vuoti d'aria, stare qua su in piccionaia ti assicuro che non è dolce. Ma porto fieramente la mia croce, ho avuto un'intuizione forse troppo precoce. Potrei diventare un avvoltoio, contare nemici come tacche sul cuoio. Fare proprio come uno dei tanti impostori, stare su una torre d'avorio. Giurare fedeltà al portafoglio, da qui all'obitorio, però non è quello che voglio. Potrei farlo, però non devo. No, no, no, no, no, non devo. Potrei farlo, però non devo. No, no, non devo farlo, però non devo. No, no, non devo. Potrei farlo, però non devo. No, no, non devo farlo, però. Ecco, abbiamo ascoltato Claudio Risio, segretario della FLC di Modena, il sindacato della scuola, che ci ha spiegato le motivazioni di quello che è successo in questo mese. Il fatto che centinaia di ragazzi, figli di lavoratori, vogliamo dire le cose come stanno? Oggi il problema è nella scuola pubblica. Le scuole superiori pubbliche sono in difficoltà. Centinaia di studenti sono stati sbattuti fuori da queste scuole perché non c'è posto per loro. Per tante ragioni non hanno trovato posto, mancano le aule, mancano gli insegnanti, perché mancano i soldi della scuola pubblica, perché non vengono fatti gli investimenti che dovrebbero essere fatti. Ci sono tantissimi giovani che si troveranno ad andare a una scuola che non hanno scelto, oppure hanno scelto come ripiego. Si troveranno ad andare in scuole lontanissime da casa loro. Questo creerà dei problemi enormi alle loro famiglie e alle famiglie dei lavoratori. Ripeto, non voglio essere populista, ma è chiaro che questo è un problema nostro, di noi lavoratori. Abbiamo i figli che vanno a scuola nelle scuole pubbliche, perché non ci possiamo permettere le scuole private, perché se avessimo i soldi per mandare le scuole private, nelle scuole private questi problemi non ci sono, e sono scuole che vengono finanziate in questi anni da tutti i governi, da i soldi nostri, di chi paga le tasse, non con i soldi delle tasse dei ricchi che spesso evadono, no? Spesso quelli che mandano i figli nelle scuole private li pagano, chiaramente spesso in Italia sono quelli che evadono le tasse. Queste scuole vengono finanziate questi anni con i soldi pubblici, invece di finanziare le scuole pubbliche. Questo accade nelle scuole come nella sanità, per questo oggi ne abbiamo parlato, perché noi siamo contrari, siamo per il pubblico, vogliamo che vengano messi i soldi nelle scuole invece di usarli per la guerra oppure abbassare le tasse alle partite IVA, oppure dare gli aiuti agli imprenditori che poi le tasse poi le pagano all'estero. E questa è la posizione del Paese Rose. Speriamo che qualcosa cambi, che cominciamo a lottare per una scuola pubblica, per una sanità pubblica, perché i nostri figli possano poter andare a scuola e scegliersi la scuola che vogliono. Ecco. Ci sentiamo alla prossima puntata. Sorgiamo, sorgiamo come il sole al mattino. Sorgiamo, sorgiamo come il sole al mattino. Se non lotti che uomo, se